mangiare. Ti posso anche portare al mare, in giro per il mondo, dove tu vuoi rimanere qui con noi. Noi due, da soli ad aspettare il sole domani e cercare dove nasce questo battito del cuore. Dice che questo è amore, cielo, mare, terra, la notte che sei tu. Ha cambiato la mia vita e non ti posso dir di più. Voglio capire cosa tu vuoi. Possiamo restare qui, possiamo giocare oppure volare. Possiamo fare quel che vuoi nel cielo lassù. Posso fare vivere quest'amore. Le storie nascono da sole, senza tante, tante parole. Vita e non ti posso dir di più.